vuoi venir a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 5 di Ratto di Campagna e Topolino di Città, il programma di Radio Big World che esplora i rapporti tra provincia e impero, tra la capitale e il contado. E questo tipo di analisi e questo tipo di studio tra l'antropologia e l'etnografia non lo farete solo con me, perché altrimenti non solo avreste la metà e solo una metà della storia, e cioè quella del ratto di campagna, ma poi io effettivamente di città sono in grado di dirvi molto poco, dato che ho sempre vissuto tra le galline, i maiali e le mucche. Ma vengo io ad aiutarti, non ti preoccupare. Eh sì, la voce di lei, colei che quando usciva di casa andava con la spider, mentre a me mi toccava andare in calesse, è Laura! Ciao Giorgio, ciao a tutti! Ben Laura, trovato. La nostra fiorentina, la nostra cittadina che oggi ci aiuterà a capire e anzi ci aiuterà ad entrare in un tema piuttosto spinoso, ma che riguarda più o meno ognuno, e cioè casa, avere casa a Firenze. Laura, la prima differenza che salta all'occhio è il fatto che in provincia di solito le case tendono a essere più grandi. Perché? Costano meno, perché c'è più spazio e perché i campagnoli amano vivere in spazi molto larghi e preferibilmente non circondati da troppe persone. Invece in città è fisiologico che questo non avvenga. Laura, a Firenze ci sarà di tutto, è chiaro, c'è la villa, c'è il castello e c'è il monolocale, ma generalmente, tendenzialmente, le case sono grandi o sono piccole? Come hai giustamente già detto, tendenzialmente sono più piccole rispetto a quelle di periferia, per ovvi motivi di spazio. È anche vero che a Firenze trovi di tutto, perché Firenze è circondata da colline, è circondata dal verde e da spazi ampi, quindi ci sono ville, ci sono case più grandi, anche solo facendo 5 chilometri dirigendosi verso la periferia di Firenze, pur rimanendo sempre nel comune fiorentino. Ah, mi raccomando! Certo, quello te l'ho detto anche l'altra volta, è fondamentale. Insomma, chi se le può permettere ci va, insomma, abitare in una casa un po' più grande, un villetta con giardino sulle colline, insomma, pare ovvio che sia meglio. Però anche vivere in una casa un po' più piccola, più vicina al centro, ha le sue comodità. Ovviamente che a piedi vai dappertutto, senza dover prendere la macchina. E poi la casa piccola, ma secondo me non è così male, eh? Spesso è più accogliente, si pulisce con più facilità, più rapidità. E poi un'altra cosa da valutare è che si affitta bene, quindi se tu la volessi affittare, insomma, una casa piccola a uno studente fuori sede, per esempio, la affitti molto bene. Uno studente che non è automunito non può andare nella villetta sulle colline, no? Deve stare vicino a tutti i servizi. Ma pensa te, questi fiorentini banchieri fanno i conti. Alla fine bisogna sempre pensare a quello, no? Siete avanti, effettivamente siete avanti. Per darmi una misura, per darla agli ascoltatori, diciamo che da noi in provincia nell'idea media di una casa si va attorno ai 100 metri quadri, quindi questa è la misura fissa che le persone si sono date per dire una casa che è più o meno media. Ma per me è grande, per esempio, una casa di 100 metri quadri per noi di Firenze è una casa grande, grandina. e quindi i fiorentini si orientano più su che metratura, così media. Dipende cosa ci devi fare con la casa, se ci devi vivere da solo, con la famiglia. Però insomma, una casa di 100 metri quadri, una famiglia di 4 persone ci vive bene, anche di 80, sì sì. Conosco una famiglia che ha 3 figlie, dormono tutte e 3 nella stessa stanza, non si trovano male. Guarda, ci parlai poco tempo fa con una di queste ragazzine, è bello stare con le mie sorelle in camera. Oddio, dici, falle crescere un po', ognuna poi ha le sue esigenze, però insomma, ci si arrangia. Comprendo, questo da noi sarebbe, insomma, più o meno considerato inaccettabile, roba da impianto. Ma sai perché? Perché da voi costano meno le case, quindi a Firenze, prima di potersela permettere una grande con 2-3 camere, insomma, c'è da lavorare, allora per questo ci si arrangia. Comprendo. E allora a questo punto, visto che voi vi fate direttamente i conti in tasca anche in relazione alla casa, il fiorentino affitta perché gli piace muoversi, girare, perché preferisce sentirsi libero, o piuttosto preferisce la proprietà? Vabbè, la proprietà tutta la vita, ma questo è proprio una prerogativa dell'italiano, perché se vai all'estero non hanno questo attaccamento alla casa come abbiamo noi in Italia. A noi proprio piace avere una casa nostra, anche perché molto spesso senti, vabbè sì, ma sono in affitto, che me ne frega, no, di quel muro se è fatto così, oppure dici, no vabbè, arrederei diversamente. Sì, cioè, solo se è tua la casa, la personalizzi. Spesso quelli in affitto sono sempre considerate provvisorie, perché penso sia, dai, l'ambizione di ognuno di noi, di campagna e di città, avere una bella casa di proprietà, non trovi? E poi è fondamentale, in particolare qui in campagna, il lasciare in eredità, quindi lasciare in eredità una casa si passa pure bene, poi che se ne fa uno dentro la casa, l'ha morto del testamento, ma insomma. Esatto, e allora se uno pensa ai figli, insomma, quale cosa migliore da lasciare in eredità? Poi se ti arriva a te ancora meglio, Va bene. E poi appunto, avendo una casa di proprietà, Firenze offre una ampia gamma di possibilità di affitto, cosa che magari da è più difficile, perché professionisti che devono lavorare in centro, studenti fuori sede come ho detto prima, un gran numero di insegnanti che ricevono un incarico annuale a Firenze, cioè tutti sono in cerca di una casa, quindi se tu ce l'hai puoi anche non lavorare, campi di affitto, è vero, è così, quindi si affitta benissimo la casa a Firenze. E allora insomma, perché non avere la proprietà, avendo la possibilità, averne 5, 6, tantissime case. Quelle a Firenze non sono mai troppe. Laddove fare il tenutario di immobili in provincia è diventato antieconomico, invece a Firenze, in città, a Firenze o in particolare con la globalizzazione bla bla bla, è invece super economico, nel senso di redditizio, pensate. Pensate, pagherai più tasse, ma insomma le tue entrate ce le hai, se le sai gestire bene, le tue proprietà. Ma incredibile! Allora, a questo punto, chi decidesse di investire nel comprare una casa a Firenze, oppure decidesse di diventare fiorentino pure lui e di passare bene con i fiorentini dicendo che ha la casa di proprietà, più o meno a cazzotto, quanto costano le case a Firenze? Vabbè, ovviamente dipende dalle zone. Una zona abbastanza centrale, ti posso dire, sui 200.000 euro, ma arrivi a circa 70 metri quadri, quindi insomma, per una coppia va bene su 200.000 euro, dai. Sì, sono prezzi in cui da noi si comincia a guardare le villette più che gli appartamenti. Esatto. Ma voi poi per venire a lavorare a Firenze li spendete in benzina, quindi ognuno deve fare la sua valutazione. Vabbè, sì. Una cosa bizzarra, successa ormai molto tempo fa, quando ancora, insomma, stava finendo la mezzadria, ma ancora c'era, una proprietaria terriera e immobiliare qui di Montevarchi decise di liberarsi di una palazzina a Firenze e se ne liberò con pochi spiccioli per mantenersi due poderi qui in campagna. Il fatto è che nel giro di 10 anni i poderi non valevano più niente e sono oggi abbandonati, e la palazzina a Firenze oggi varrebbe qualche milione. Vagliela a dire, va, poverina. E a coloro che hanno la casa a Firenze, che hanno il certificato di proprietà e che lì del comune di Firenze, ovviamente segnato o firmato dal sindaco di Firenze in persona, che problemi hanno i proprietari di case a Firenze? Allora, come abbiamo già accennato l'altra volta, il parcheggio, no? Spesso è un miraggio. Allora, se non hai la fortuna di avere il garage, devi appunto cercare parcheggio. E quello che volevo dirti anche l'altra volta, ma del quale mi sono scordata, è che molto spesso ti scordi dove hai messo la macchina. Perché se giri tutto l'isolato e non c'è posto, e poi magari va nell'isolato accanto, insomma, trovi un posto che poi non è quello che usualmente usi, ecco, il giorno dopo, magari di corsa per andare al lavoro, con ancora il segno del cuscino sulla faccia, dici: ma dove ho messo la macchina? E lì comincia la ricerca. Questo a voi non può succedere, beati voi, ma insomma qua succede, tantissime persone le senti dire: madonna, non mi ricordo dove ho messo la macchina ieri. Oddio, poi insomma può succedere forse più smemorati tipo me, però insomma non sono l'unica. Quindi parcheggio è uno dei problemi, e poi ecco, sicuramente bisogna vedere dove è l'affaccio, perché mentre da voi è quasi sicuro che apri la finestra e vedi un po' di verde, qui a Firenze insomma se hai un affaccio su una strada trafficata insomma non è proprio il massimo. No. Però molte case ti illudono, guarda, di essere brutte, in brutte posizioni, perché tu le vedi, no, passi da una strada trafficata e dici: madonna, questi poverini, guarda dove abitano, no, proprio in mezzo allo smog. E invece hanno molte case, anche quelle che te non ti aspetti, un affaccio sul retro, sono molto spesso dotate di bei giardinetti, una corte o comunque uno spazio gradevole, ecco, non è l'area pura della campagna, però un spazio gradevole c'è in molte situazioni dove tu invece che passi da fuori, non, delle quali tu non ti rendi conto, ecco, solamente a vederle da fuori. Le case da fuori ingannano e nascondono quello che c'è dentro, e questo è un tratto piuttosto tipico della cultura fiorentina, ma più o meno di tutti i tempi. Basti pensare che Firenze era una città dove le chiese non avevano facciate e sembravano praticamente bombardate, e invece dentro nascondevano dei tesori artistici e architettonici di una bellezza e di una ricchezza incredibile. Quindi diciamo che questo aspetto dell'essere fiorentini si ripropone oggi anche in ambito di case e abitazioni moderne. L'altra sera è venuto qui a Montevarchi un professore universitario che insegna a Firenze, e a un certo punto, alla fine della sua conferenza, ha detto: se non ci sono altre domande, torno in provincia, ossia nella provincia, la provincia di Firenze, la città di Firenze. Per cui, come dire, voi altri che siete qui di campagna sapete una bella zappa. E effettivamente provincia di Firenze, e probabilmente anche città, proprio comune di Firenze, ha un significato anche economico, ossia spesso e volentieri chi abita al confine con la provincia di Firenze, per esempio la provincia di Arezzo, per esempio la provincia di Siena, come succede qui in Val d'Arno, ma come succede anche nel Chianti, basta essere nella provincia, definiamola sbagliata, e cioè quella di Firenze, perché arriva uno stronco di tasse. Bene, la casa a Firenze e il comune, le tasse, la spazzatura, la pulizia strade, come funziona lì da voi? Allora, sulle tasse non sono molto preparata, quindi non saprei che dirti, però una cosa che mi è saltata all'occhio riguarda la spazzatura. Allora, in molti paesi ci sono i giorni nei quali l'omino passa a ritirare la spazzatura, non so anche se anche da voi. Allora c'è il martedì, ritira l'organico, il mercoledì ritira la plastica, il giovedì l'indifferenziato, eccetera eccetera. All'inizio ho pensato: comodo, peccato che non ci sia anche da noi, no? Tu metti il sacchetto fuori senza tante preoccupazioni, c'è chi passa a prenderlo. E invece poi questa raccolta porta a porta ha un suo lato negativo, ovvero se tu fai una cena, no? E fai un sacco enorme di organico, e la cena magari l'hai fatta di venerdì, e l'organico verrà ritirato il mercoledì. Te devi tenere 4 giorni in casa il sacchetto con l'organico, che non è proprio qualcosa di profumato. E quindi ho detto, ben venga che noi abbiamo i cassonetti fuori dalla porta, fai 2 passi e te li butti via da soli. E vabbè, comunque la spazzatura è un po' un problema, secondo me, come la giri la giri, è una questione spinosa, diciamo. Così spinosa che voi ve ne liberate e la scaricate qui in Valtarno, d'altra parte. Oh, volete più spazi aperti, prendete oneri onori, che fa? Quartieri chic e quartieri popolari o meno chic. Popolare è una parola degli anni 70, nel senso che ovviamente, come in ogni grande città, ci sono delle zone che sono considerate più alla moda, più ricche, più piacevoli da vivere, e ci sono zone che sono invece più densamente popolate o abitate. La differenza che fa tra l'Upper East Side e Brooklyn, non lo so, è chiaro che c'è una differenza, e ci sarà naturalmente anche a Firenze. I paesi sono troppo piccoli alla fine per avere dei quartieri dove un po' è peggio, un po' è meglio. Lì magari la differenza, almeno in provincia, la fa il tipo di casa in cui si abita e non esattamente il quartiere, ma probabilmente a Firenze questa cosa esiste. Quando uno si presenta o quando si conosce uno e dice, ah, io sto a Rifredi, io sto a Fiesole, io sto a Porta Romana, ha un significato per il fiorentino oppure no? Un po' sì, dai, anche se secondo me si sta sorpassando, perché insomma anche i quartieri più periferici si stanno riqualificando, e secondo me sta differenza con l'andare del tempo verrà meno. Però insomma, dire che abiti a Fiesole o dire che abiti alle piagge, insomma, è un po' diverso. Ecco, sai cosa c'è invece? Che qualcuno non ha molto piacere invece a dire che viene dal contado. Un ragazzo con cui andavo a scuola veniva niente poco di meno che da un paesino che si chiama Passo dei Pecorai. Pensate. E il fiorentino snob iniziò a prenderlo in giro, perché sì, se te dici che sei delle piagge, sì, sei in un quartiere un po' periferico, ma sei comunque di Firenze, dai, su. Invece quello che veniva dal Passo dei Pecorai si sentiva un po' discriminato, capito? Cioè proprio non poteva nemmeno fingere più di tanto. Allora diceva in generale, ma vengo da vicino Greve, capito? Così rimaneva più sul vago. Però insomma, alla fine l'aria che respirava lui, qui non la respiriamo, è l'aria pura del Passo dei Pecorai. Ogni tanto qualche cosa gli invidiamo al nostro amico del Passo dei Pecorai. Ma oggigiorno qual è il quartiere più chic di Firenze? L'Oltrarno. Perché ci abito io, caro. vabbè, San Frediano come vita notturna, insomma, negli ultimi anni piace, ci sono dei bei localini. Ecco, forse oltre al quartiere dove uno abita conta anche la zona che uno frequenta quando esce, ecco, magari, oppure certi locali che sono più chic. Poi non so sinceramente se c'è corrispondenza, se tu vieni dalle piagge e vai al Colle Bereto, alla fine sei come uno di Fiesole che va al Colle Bereto, se frequenti comunque il locale chic, il locale in fighetto, diventi automaticamente fighetto, dai, anche se ci vieni te da Montevarchi al Colle Bereto, puoi essere annoverato tra fighetti fiorentini, non ti preoccupare. È che a me mi riconoscono da come sono vestito, dalle scarpe. Sì, che c'ho le zolle ancora dell'orto e dice, eccolo lì, è come quelli che vengono da Siena, boh, c'è una terra che è nera riconoscibilissima, dice, quello viene da Siena e c'ha le scarpe col colore della terra. E poi devi stare attento, perché c'è il buttafuori che non ti fa entrare, quindi se sei una donna te la cavi, ma se sei uomo stai attento, è come vieni nei locali di Firenze. D'accordo, lascerò il trattore sui lungarni. Ma c'è la ZTL, aspetta. Già, questo da ricordarselo. E già che parliamo di ZTL e già che parliamo di lungarni, il centro di Firenze, celebratissimo, bellissimo, ma come anche i centri storici delle grandi città italiane, Roma, Bologna, Genova, ma anche Milano. Genova, insomma, i Carrucci non tanto, ma mettiamocela alla fine, una grande città. vivere in centro c'ha delle limitazioni, e c'ha delle limitazioni notevoli, pur godendo della bellezza del luogo in cui si vive. Ecco, vivere in centro a Firenze, chi vive in centro a che cosa va incontro ogni giorno? Allora, sicuramente se non ha un garage o un permesso ZTL deve abbandonare la macchina, perché con la macchina non ci entri, o se ci entri non parcheggi, a meno che, boh, non lo so, te la metti in tasca. E quindi, però insomma, se tu vivi a Firenze spesso c'hai anche il permesso per accedere a un garage dove lasciare la macchina, o se no non hai bisogno della macchina e vai tutto a piedi, allora insomma te lo godi il centro, perché cammini a naso all'insù e vedi delle meraviglie notevoli. Però ecco, molti sono fuggiti dal centro perché preferivano un po' più di verde, meno caos. Molti invece ci vogliono vivere perché gli piace vivere in mezzo all'arte, in mezzo anche alla folla quando c'è, insomma, perché no. Tutto sta nel luogo di lavoro, dove è, come si organizza la vita privata, la vita familiare. Insomma, io sinceramente ci vivrei, te forse avresti difficoltà, ma insomma dipende anche dall'abitudine, no? Quindi i fiorentini hanno una specie di amore-odio per il centro, nel senso, esatto, amore perché è, però l'odio perché effettivamente ci sono delle scomodità e chi ha determinate esigenze in centro. Ma poi parliamo della ZTL, allora io forse ho un mio limite, ma non capisco mai una via se è accessibile o meno, perché ci sono 4-5 cartelli, 2-3 semafori, gli orari, poi cambia, non lo so. A volte dico vabbè, ci passo, via, se prendo la multa, pazienza, oppure aspetto, no? Mi fermo un attimo col motorino da una parte e dico vediamo se passano altri motorini, forse vuol dire che ci possiamo andare, oppure prenderemo tutti la multa insieme, non lo so. Però secondo me, se hai una bella casa, magari un bell'attico con vista Santa Croce, se hai l'ufficio a 2 passi da casa, insomma, ci vivi bene. Senz'altro. Ma come ci sono le case del centro, come ci sono le ville dei quartieri più nobili, ci sono anche palazzoni e condomini. E quando si parla di Firenze, quando si parla di città, si parla condomini da diverse centinaia di condomini in alcuni casi, quando qui da noi o in provincia sono realtà molto molto ma molto rare, e generalmente il numero dei condomini medio sta tra i 10 e i 20. Come si vive in condominio? Non so quanti sono i condomini del mio condominio invece? Per esempio? 105 famiglie. Vabbè, quel mio condominio un po' particolare, tutto in vari palazzini, vari cortili interni, insomma una realtà più unica che rara. Comunque, quando ci sono tanti condomini mi puoi anche ignorare, quindi si può fare anche gli affari tuoi semplicemente. Guarda, non è poco così male. Scegli tu, insomma, è come un paesone, scegli tu, se non vuoi considerare nessuno, nessuno ti considera. Se invece vuoi stringere rapporti, insomma, le possibilità ci sono, perché in ogni caso, insomma, ti affacci la finestra e vedi quello di fronte. Anzi, c'ho un caso, insomma, il caso dei miei genitori, sono diventati migliori amici della famiglia quasi di rimpettaia, quando un'altra famiglia che stava sempre lì accanto, con la quale non hanno legato, invece insomma si salutano a malapena. Quindi ecco, nel grande condominio c'hai più varietà di rapporti, quello sì, e non è male, ti dico la verità. Il piccolo condominio è un po' come il piccolo paese, no? Tutti sanno tutto di tutti e un po' il pettegolezzo regna sovrano. Insomma, se vuoi passarla liscia, forse ce la fai a passarla liscia, basta che ti muovi bene. In paese secondo me non la passi liscia, no. Tutti sanno tutto, non c'hai scampo. E allora, anche a Firenze si spettacola del vicino, ma se il vicino è accorto, tipo, che ne so, si mette la barba finta, gli occhiali con il nasone, riesce a farla franca. Grazie Laura per Prego. Le tue brillantissime osservazioni. Figuriamoci. Come sempre ringraziamo gli ascoltatori di Radio Big World che ci hanno seguito fino a qui, e direi che ci diamo appuntamento alla prossima fiorentinata. Grazie.